Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Pirini? Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo Fantozzi, come va? Anche ecco. Per prendere la pensione, suppongo. Sì, la ce l'hanno, mi ha detto. Ma dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Ah, grazie. Fantozzi, che palaccia questa pensione. Si prendono i soldi senza lavorare. Quando in pensione io me ne andrò, manca poco ormai. Mio padre aveva 49 anni, stava per andare in pensione perché all'epoca si andava a 50 anni in pensione. Che successe? Che ci fu un disegno di legge che diceva di prolungare l'età pensionabile dai 50 ai 55. Quindi mio padre ci rimase male. Andava pure la mia pensione. E sto pensando, c'erano pure gli arretrati. 49, 54. Stava lì per andare in pensione quando ci fu un disegno di legge che diceva di prolungare l'età pensionabile dai 55 ai 60. La carta rossa vince, la carta nera perde. La carta rossa vince. Eccola qua. Qui non ci arrivata sta. A 59 anni ci fu un decreto che prolungava l'età pensionabile a 65 anni. Padre si arrabbiò con mia madre. Fatteo! E che allora famo, dimo qui e no, Non si può cambiare quattro carte. Io dico che è barato, ragazzo. Se permetti do una mischiatina anch'io. Quando in pensione io me ne andrò. A proposito di cambiare le carte in tavola, Giuseppe Cardinale, 70 anni, palermitano, ex manager della Standa, che sul blocco dell'indicizzazione delle pensioni ha fatto ricorso e ha vinto. Ha messo la Corte Costituzionale contro il governo. È soddisfatto? No, non è questo. Non ho nessun piacere a mettere... È quello che in realtà è capitato. Che è capitato così, ma non avevo questo piacere o non ho questo piacere. Aveva soltanto l'obiettivo di recuperare la sua pensione. Il professor Cassese sul Corriere della Sera parla di uno scivolone della Corte che avrebbe potuto innescare una valanga per l'economia. Si sente un po' colpevole di questo? È la risposta di prima, no, assolutamente, perché ci sarebbero 100 modi, a mio giudizio, di poter ottemperare alla sentenza. È un discorso che faccio personale. Sì. Si poteva pagare a rate, avremmo accettato... la buona volontà, l'avrei accettato perché posso parlare per me, non so per altri. Certo. La buona volontà del governo di pagare a rate il rimborso di questa partita non bloccata. Sì. Perché capiamo la difficoltà della nazione, quindi noi siamo persone civili, però mi sembra un obolo. Senta, ma lei si rende conto che in qualche modo però ha innescato uno scontro generazionale? E anche questo direi che è un po' disonesto chi lo vuol far credere o ne parla, perché io credo che, non do percentuale, ma sono altissime le nostre pensioni, servono a tanti in famiglia, figli, nipoti e così via. No, noi teniamo nipoti in casa perché mancano gli asili, noi teniamo figli in casa perché disoccupati o di lì. Quindi voglio dire, certo, ho capito. Non si azzecca. Non sente questo. Ecco. Senta, uno dei suoi avvocati ha detto che riattiverà il procedimento sospeso a Palermo per ottenere cosa? Sempre la stessa cosa? Eh? Per ottenere la definizione del processo, perché non è definito così, con questa risoluzione del governo. Ripeto, è una toppa piccola che non copre il buco. È un discorso anche di dignità. Senta, quindi secondo lei 500 euro che Renzi ha annunciato per 3,7 milioni di pensionati non sono una misura sufficiente? Io dico, mi ripeto, è un discorso di dignità. Si poteva fare diversamente, con più dignità per noi. I pensionati non siamo dei affamatori, dei voraci divoratori. Siamo persone civili e dignitose. Quindi voglio dire, si poteva fare direttamente. Così non è dignitoso per me. Ecco, ministro Padoan, buongiorno. Ha sentito il dottor Cardinale dire riattiverò il procedimento per difendere la mia dignità? Che effetto le fa? Ma mi fa l'effetto che la dignità va collocata nel contesto in cui è stata presa la decisione che adesso la Corte Costituzionale ha dichiarato parte illegittima, cioè non dimentichiamoci che nel 2011 l'Italia era veramente sull'orlo del baratro finanziario e che negli anni di recessione profonda come quelli passati le pensioni sono aumentate, quindi ad essere onesti ci sono altre fasce di popolazione che hanno perso più dignità e quindi lei non pensa di aver tolto dignità ai pensionati con questa decisione? Assolutamente no, innanzitutto perché i pensionati a pensioni più basse sono rimasti intoccati, quindi stiamo parlando delle pensioni medio-alte che nel caso alto non sono state reinserite nel meccanismo di indicizzazione. Certo, quelle però, sono escluse direttamente. Sì. Però le pensioni medie hanno ricevuto risorse che prima non si aspettavano. Ecco, ma e voi questo nell'ambito del fatto che rispettiamo i conti pubblici e quindi evitiamo di togliere altre risorse per altrove, le spese per il futuro. Senta, ministro Pardo, ma voi avete messo nel conto tutti i ricorsi che ci saranno? Ci saranno molti ricorsi. E come li affronterete? Vedremo i ricorsi e naturalmente noi riteniamo che la nostra linea sia quella giusta perché tiene conto degli interessi generali del paese. Ecco, per esempio non si poteva rateizzare per tutti come diceva Cardinale? Guardi, abbiamo fatto il massimo possibile nei vincoli di bilancio compatibili, ricordo a tutti naturalmente che se noi avessimo speso un po' di più di quello che stiamo facendo adesso saremmo con ogni probabilità entrati in contrasto con le regole europee che ci avrebbero comportato tagli di risorse molto maggiori di quelli che adesso sembrano essere. Ma la rateizzazione quindi non era una opzione possibile? Io ricordo che innanzitutto ci sono gli arretrati 2012-2013 sì. E poi a partire da adesso e per il futuro l'indicizzazione viene aumentata in misura permanente, quindi ci sono redditi attesi in più per classi di pensionati, questo ci si dimentica di considerare. Senta, ma questo provvedimento dal suo punto di vista, secondo la sua ottica, riduce o no lo scontro generazionale che in ogni caso è all'orizzonte? Guardi, il sistema pensionistico, come ha detto il Presidente del Consiglio, andrà rivisto nei prossimi mesi con più calma nell'ambito della legge di stabilità. Certo. Nel frattempo osservo che questa misura dà più soldi ai pensionati, anche se ovviamente apprezzo moltissimo, in quanto papà anch'io, il fatto che gli anziani diano una mano in famiglia e questa è una delle grandi ricchezze della società italiana. Per rilanciare l'economia, l'obiettivo è riportare l'inflazione al 2%, questo si dice in continuazione, ma se l'operazione riesce, le pensioni bloccate perderanno ulteriore valore d'acquisto. Allora come la mettiamo? I pensionati ancora più poveri? Stiamo parlando di pensioni di alto livello e stiamo parlando di un'inflazione molto modesta. In compenso, se l'inflazione raggiunge un valore un po' più alto di quello di adesso, diciamo il 2%, sì, il debito italiano scenderà più rapidamente e quindi ci saranno più risorse per tutti nel bilancio. Più risorse vorrà dire applicare la sentenza interamente? No, significa investire nel futuro, investire per i giovani, certo, investire nell'educazione e nella scuola, cosa che il governo sta cominciando a fare. Senta, ministro Padoan, per Renzi un diritto, comunque un diritto acquisito, come ha detto la Corte Costituzionale, riconosciuto dalla Corte, si è trasformato nel bonus Poletti. A lei piace la parola bonus? Guardi, è una parola come altre, però ribadisco. Beh, ribadisco un concetto un po' più tecnico ma forse più sostanziale, sì, che non solo, come dicevo prima, noi restituiamo, diamo degli arretrati e se vuole il termine bonus si applica a questo, ma soprattutto aumentiamo l'indicizzazione futura e quindi diamo un aumento permanente di entrata ai pensionati. Quindi la parola bonus va bene secondo lei? Ma ci sono tante parole che potrebbero essere migliori. Ah, senta, a distanza di mesi, con le previsioni di crescita intorno allo 0,7 mi sembra, si può dire che gli 80 euro non sono serviti a far ripartire i consumi? Ma io direi che i consumi sono 7 mesi che crescono e quindi gli 80 euro penso che siano importanti perché sono permanenti, non dimentichiamoci che non certo, sono un bonus, non sono caso, un bonus, ma sono un aumento reddito permanente. E quindi secondo lei hanno spinto questa leggera crescita? Hanno contribuito e lo faranno in misura crescente perché le famiglie nel frattempo hanno ricostituito i loro bilanci colpiti molto duramente dalla crisi. Ha detto però il presidente dell'INPS che è aumentata la povertà. La povertà bisogna vedere come si misura, naturalmente stiamo ancora pagando le conseguenze di quella che è la più grande recessione del dopoguerra, non dimentichiamoci. Certo. Senta, Ministro Padoan, l'Europa adesso dice che l'immigrazione è un problema comune, e questo è una buona cosa dal punto di vista del principio, però soldi non ne stanzia, parole tante ma soldi pochi, anzi quasi niente. Continuiamo un po' a subire in Europa da questo punto di vista? Io direi proprio di no. L'Italia in Europa in molti campi, da quello dell'immigrazione alla politica estera all'economia, ha acquisito, me lo faccia dire, un peso che prima non aveva, e certo, sta incidendo su decisioni concrete. Ma dicevo, i soldi però per l'immigrazione, per combattere questo problema tremendo, mi sembra che se ne siano decisi pochi a Bruxelles. Ma io penso che il problema dell'immigrazione vada al di là dei soldi, della redistribuzione nel bilancio europeo. Bisogna definire politiche comuni, mettere in campo risorse che i paesi già hanno in comune ed avere soprattutto un accordo sull'accoglimento degli immigrati nel continente europeo. Senta, Ministro Padoan, i diritti acquisiti, in ogni caso abbiamo visto, si possono toccare, ma i privilegi acquisiti dai parlamentari no. C'è un po' da vergognarsi? Ma guardi, io non entro in decisione. Lei non è parlamentare, quindi non la riguarda. Io non sono parlamentare e rispetto le istituzioni, siccome le istituzioni sono del Parlamento, sono indipendenti dal governo, rispetto le decisioni. Però avrà un'opinione. Sì, certo, noto peraltro che il governo da subito, da quando è entrato in carica l'anno scorso, ha fatto della perequazione e dei limiti agli eccessi di retribuzione, soprattutto ad alti livelli, e dei privilegi, uno dei cavalli di battaglia. Quindi certo, andiamo avanti quella lunga. Però, quella... Ministro Padoan, un'ultima cosa, però quelli dei deputati condannati sono stati cancellati con un tratto di penna dalla Presidenza della Camera e del Senato. Perché non si fa così con tutti, il problema è risolto? Ma io credo che si tratta di distinguere fra chi ha un procedimento e chi no. E ripeto, comunque nelle decisioni concrete lascio la piena autonomia ovviamente alle istituzioni parlamentari che sono indipendenti. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Un giovane che guadagna 1000 euro al mese, arrivata alla pensione, prenderà ancora meno. Quello che emerge è preoccupante. Il 65% dei giovani lavoratori tra i 25 e i 34 anni avranno una pensione sotto i 1000 euro. Avete presente quei giovani, non più così giovani, di cui ogni tanto parlano in TV scuotendo la testa con rassegnazione? Ecco, quei giovani sono io. Guadagno 1000 euro al mese per fare un lavoro che non mi piace in un'azienda a cui non piaccio io. Non so se mi rinnoveranno il contratto, non so dove sarò tra 6 mesi, non so quale sarà il mio futuro. Boeri, lei ascoltando il dibattito sulle riforme cosa pensa? Noi abbiamo avuto un aumento dell'incidenza della povertà di circa un terzo. Il conteggio delle famiglie che si trovano al di sotto di una soglia di povertà, la percentuale di famiglie è salita dal 18 al 25%. Non è una meraviglia un paese che ha risolto definitivamente il problema del futuro per i giovani? Però ragazzi, che fatica questi giovani! Non ce l'avete più il futuro! Professor Tiziano Treu, buongiorno. Il suo successore alla presidenza dell'INPS ha sentito Tito Boeri, ha detto che la povertà è aumentata di un terzo e si poteva evitare, d'accordo? Sì, sono anche questi effetti di anni di crisi e degli squilibri nella ripartizione del reddito, tra cui gli effetti di questa sentenza rientrano, perché anch'io sono critico. Critico su della cosa? Decisione, a parte le motivazioni tecniche, ma vede, l'ultimo giovane che ha parlato, il livello adeguato che la Costituzione garantisce, qual è? Quando si dice che a 1300 euro per un pensionato bisogna dargli qualcosa, mentre invece al giovane di 1000 non si hanno i soldi per fare abbastanza, proprio perché le risorse continuano ad andare nelle pensioni. Questo è il difetto macroscopico, poi le cose tecniche. Ecco, ma il sistema, professor Treu, il sistema retributivo è all'origine del disastro del sistema pensionistico italiano? Beh, era un sistema che prometteva di più di quello che si poteva mantenere, fatto in epoche in cui in altro mondo si moriva prima, si viveva meno. Certo. E adesso invece il metodo contributivo, che è da 20 anni in funzione, corregge i difetti, bisognerebbe accelerarlo. Come ecco, minimo. Bisognerebbe farlo per tutti. Come in fondo questo. La discussione si risolverebbe in qualche modo. Beh, se si desse a tutti quello che gli spetta per con il contributivo si risparmierebbero un mucchio di quattrini. Oggi su 24 ore si fa addirittura un calcolo che si risparmierebbero decine di miliardi, perché in fondo questi sono dei privilegiati, poco o tanto. Per cui io dico che se si devono dare risorse per ottemperare alla Corte, sarebbe bene non prenderle solo dal tesoretto, ma prenderle dalle pensioni alte. Cioè questo prendere dalle pensioni più ricche per sostenere quelle più basse. Ma se sono più ricche, perché sono già calcolate col contributivo? No, sono più ricche. Intanto cominciamo a vedere quelle che sono più ricche perché sono state calcolate col retributivo. E naturalmente sono diversi miliardi. Naturalmente. Quelle del contributivo, quanti miliardi sarebbero quelli? Il Sole dice 46 miliardi addirittura, ma mettiamo pure che sia per eccesso, però comunque sprechi. No, quelli che hanno il contributivo prendono quello che hanno pagato, no? Non è ecco, che lì... no, ma se lei dice che bisogna tagliare a quelli che hanno le pensioni più ricche, là dentro bisogna distinguere, no? Immagino. Io direi cominciamo da quelli che hanno preso col retributivo di più di quello che hanno pagato. Senta, adesso Renzi chiede all'INPS di disegnare un percorso di flessibilità in uscita. Lei è d'accordo? Ma mi fa piacere, perché è un tema che alcuni di noi avevamo sollevato qualche anno fa, e poi anch'io ci stavo pensando quando ero all'INPS, perché vede, si parla tanto di flessibilità nel lavoro, nelle abitudini, e l'unica cosa che non è flessibile è la pensione, l'età pensionabile. In tutti i paesi vicini hanno cominciato a dire diamo una fascia di età entro cui uno sceglie, se va un po' prima prenderà meno, se va fra dopo prenderà di più. Mi pare giusto, discutiamo come, ma mi pare giusto. Ecco, si può quindi ricalcolare tutte le pensioni così adesso. Almeno per il futuro, certo. Senta, ma come fanno i giovani con la realtà contrattuale di oggi, che è una realtà a singhiozzo, a garantire poi una continuità di versamenti e quindi avere una cosa che non sia quello che diceva il ragazzo nel questo, questo è vero un problema drammatico. Anche di questo la Corte avrebbe dovuto tener conto, non solo bilanciare questa questione della indicizzazione con l'articolo 81, l'equilibrio di bilancio, ma con il futuro, l'equilibrio fra generazioni. E se tutti i soldi, ripeto, continuiamo a darli ai pensionati relativamente ricchi rispetto ai giovani, noi non abbiamo soldi per investire, per quello che diceva il ministro Padoan. Soprattutto i giovani sono da 10 anni in sostanza senza sostegno, e per questo c'è tanta disoccupazione. Ecco, per ma che cosa, in futuro che cosa, non avranno una pensione adeguata. Ecco, no? Ma che cosa devono sapere i ragazzi di oggi sul futuro previdenziale se non si passa tutti al contributivo? No, no, ma infatti è bene che si passi tutti, perché almeno gli diciamo ci abbiamo provato e vi diamo una speranza. I giovani devono darsi da fare, ovviamente devono studiare, io secondo me devono andare all'estero, perché lì sì, devono andare all'estero, devono loro possono fare questo, siamo noi che possiamo fare di più. Certo, loro devono andare all'estero, devono studiare, magari lavorano 4, 5, 6 anni all'estero e poi dopo tornano e con la pensione non torna più in conto. No. Per fortuna in quasi tutti i paesi in Europa, a cominciare dall'Europa, ci sono i sistemi pensionistici, comunicano. Il problema è che abbiano un lavoro continuo in Italia o all'estero, è che il guaio, molti giovani cominciano tardi, hanno periodi interrotti, allora la pensione sarà più scarsa quello che sarebbe normalmente. Ma professor Treu, lo scontro generazionale che è all'orizzonte è evitabile? È evitabile se si mette in piedi un serio progetto di rafforzamento della crescita e dell'occupazione dei giovani da una parte, e si comincia a ridurre le spese per le pensioni, eliminando gli sprechi o comunque le cose che sono quasi gratuite, perché gente che prende di più di quello che ha dato. Senta, professor Treu, prima di chiudere c'è Mario Secchi che vuole fargli una domanda. Buongiorno professore. Buongiorno. Sì. Allora, io ho controllato bene la sentenza della Corte, eccetera. E, insomma, secondo me i cittadini dovrebbero essere informati di come ha votato la Corte, quali erano le dissent opinion, quali erano quelle, cioè, a favore, quelli che hanno votato contro, quelli che erano a favore e quali erano le motivazioni. Quella è una sentenza, secondo me, che ha deragliato completamente, ma questa è la mia opinione, come quella di Treu. Insomma, la domanda è alla fine: ma perché non si pubblicano i verbali, le minute delle decisioni e delle riunioni della Corte Costituzionale? Si invoca trasparenza per tutti tranne che per loro? Giusto, giusto. giusto, è quello che fa per esempio la Corte degli Stati Uniti, è giusto. Peraltro guardi che il testo della decisione è molto chiaro ed è appunto molto criticabile. Criticabilissimo. È molto perché non tiene in conto interessi che sono più ampi e di persone altrettanto concrete come i pensionati. Ecco, non sarebbe il caso di promuovere un comitato per la riforma della Corte Costituzionale in questo senso? Beh, non occorre una riforma, basta che la stessa Corte potrebbe, che ha poteri di autoregolamentazione, allora che si autoregoli, capisce che c'è questo bisogno di trasparenza. E poi la cosa grave della sentenza, l'ha detto anche Cassese, è una cosa così importante, non si decide a pari e patta col voto del Presidente. Questo è veramente inopportuno. Grazie professor Treu, grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Mi dia un pacchetto di Camel senza filtro, una Minerva, è una cronaca alla radio, dice che è una punta attacca, verticalizzando l'area di rigore. Ragazzi, non giocate troppo spesso accanto agli ospedali. Allora Pietrangelo finalmente è ritornato con noi e questo siamo contenti. Grazie. E allora oggi, siccome capita di sentirsi stanchi, stanchissimi, specie nei primi giorni di estate, quando tutto il rovinare del caldo si annuncia nei presagi di camicie orfane di giacca e i maschi adulti se ne vanno tutti ciondoloni senza sapere come portarsi dietro le poche cose, gli utensili di sopravvivenza quotidiana, le chiavi, i soldi, i documenti, il telefono e la pappa, e la stagione nuova, quella senza giacca, ci fa tutti provvisori e dunque nomadi improvvisati. E i pendolari oggi me li sono studiati, sembravano tutti reduci da un video anni 80, di quelli confezionati nel retro bottega di uno speziale, e la sigaretta al mentolo del professore di filologia ha fatto un incantesimo. Ha donato ai passeggeri il beneficio di ritrovarsi in pantaloncini corti, con le barbe bianche che sono diventate nere, anzi alcune sono proprio sparite, gli occhi di tutti hanno perso la stanchezza e la trasformazione, al sapore di mentolo, ha fatto dell'allegrezza una sorta di benzina, un carburante versato da ciascuno nel proprio angolo di vita per trasportarsi in quello che è un angusto transito, in un andare verso il sole, dove, per dirla con Franco Battiato, Venezia diventa Istanbul e la metropolitana diventa il luogo del ritorno. E allora sì, con Franco Battiato, con questa bellissima canzone, si verticalizza l'area di rigore. Corrispondenza. Della storia. Posso fare una domanda a Pietrangelo? Fagli una domanda. Ma la sigaretta al mentolo come ti è venuta? Ma non le fuma più nessuno. Ma lui è un professore di filologia bizantina. Ho capito, e ma appunto per questo si è fermato lì. Ha così il privilegio di poterlo fare perfino dentro la metropolitana. La sigaretta al mentolo. Si vede che a Teheran fumano ma la sigaretta. Come gli viene? Vabbè. Sentiamo cosa c'è nella pentola di Mario. Cosa bolle? Intanto scusa Mario, è entrato naturalmente tantissimi interventi sul discorso delle pensioni che abbiamo appena cominciato e che continueremo. È ottimista Padoan, sì, un po' ottimista sulla ripresa, però vabbè, sulle pensioni ha fatto un buon discorso. Anche, eh? Posso fare una domanda? Sì, certo. No. Così, alla femminina, come si suol dire. Quindi, se è capito una cosa, non solo si è tutti precari oggi, ma la certezza che assicura il governo è che domani non saremo neppure pensionati, e questa è la questione. No, semplificazione eccessiva. Come al solito. Tu hai fumato troppe sigarette al mentolo a te. No, è che passare al contributivo cambierà tutto. Solo sì, che ci vuole ancora. Ci vuole tempo. È che volevo un linguaggio adatto a me. Va bene. Il tuo caso. No, voglio capire se si è tutti precari significa che poi non si sarà pensionati. Ecco, questo. Certo, ma quella è la precarizzazione. Vabbè, mi fate ripartire l'immagination. Per favore. Ma siete disordinati stamattina. Allora, voglio parlarvi di un po' di illusioni. Sono le grandi illusioni dell'economia. In fondo si muove grazie alle illusioni e alle utopie la vita in generale. E che cosa sta succedendo? Facciamo un recap, cioè controlliamo un po' il quadro. E la Banca Centrale Europea ha accelerato il piano di acquisto di titoli in questi giorni. Avete visto, c'è stato un balzo all'ingiù in questo caso, in realtà, dell'euro negli ultimi due giorni. Vediamo cosa succede oggi con la quotazione della moneta, però è molto interessante tutto questo. Quindi la BCE continua ad acquistare e l'euro va un po' più giù. Contemporaneamente sono usciti i dati sulla crescita giapponese, poco fa li ho visti, è un più 2,4%, però ha la domanda interna bassa. Quindi l'altra banca centrale che ha un grandissimo piano di politica monetaria ultraespansiva, cioè la Banca del Giappone, ha questo problema di stimolare la domanda interna. Vi ricorda qualcosa? A me ricorda molto l'Italia, certo, che ha un'altra analogia con il Giappone. È uno dei paesi più vecchi del mondo insieme alla Germania. Siamo in tre: Italia, Giappone e Germania. L'altra cosa interessante è che a proposito di chiarezza, trasparenza e così via, la pubblicazione delle minute della Federal Reserve, quello che dicevamo prima, fa emergere che la Federal Reserve non ha ancora le idee chiare su come andrà la crescita americana. E dunque, per completare, diciamo, le banche centrali continueranno ad andare avanti con questi stimoli monetari. Pomperanno ancora molto denaro perché vogliono sostenere la ripresa, però nei mercati c'è molta volatilità. Avete visto come sta aumentando lo spread tra i vari titoli di Stato? Questo non è un buon segno. Quindi occhio alla borsa. In Italia tutto a posto. Oggi assumiamo 100.000 precari nella scuola. E vai con la spesa pubblica. Non è che sono investimenti che producono ricchezza. No, e questa è la cosa che mi sorprende. Si è parlato di assunzioni, prese, di cose, eccetera. Degli studenti, no. Neanche di politica industriale. E neanche, vabbè, politica industriale. Poi sarebbe quello che... Gli imprenditori, quelli che fanno i posti di lavoro veri, esatto, sono loro, altro che, vabbè. Salamino. In principio fu il ghepardo, meglio ancora, il tacco su scarpa ghepardata. Nella Leopolda di trionfo e di avvio smagliante, e Maria Elena Boschi, ministro delle riforme oggi, guadagnò il posto che la colloca nella prima fila della vetrina. E poi ci fu la treccina. Meglio ancora le treccine, intese al plurale, quelle che i bimbini del Congo, presi da lei e consegnate ai loro genitori in Italia, le annodarono a contorno del volto così soave. Ed è una figura speciale quella di Maria Elena Boschi. Mamma sua ha parlato giustamente per difenderla, ma la ragazza, nata nella politica, non ha subito per esempio l'esilio cui è toccata una Simona Bonafè, costretta a starsene lì nella cosiddetta Europa. Lei sta in prima fila a garantire l'aura epoca di Matteo Renzi e quindi forma e riforma il potere, e ben poco può scalfire con tanta potenza la fischiatina avuta a Roma. E dove? Chiamata a presenziare la cerimonia finale degli internazionali di tennis, il ministro Boschi è stato contestato, rumorosamente fischiettato. Erano applausi. Sembravano fischi, ma sai che si fischia anche per applaudire. Ma tant'è vero che non li ho voluti fare sentire, perché una donna si porge soltanto il petalo dei fiori. E allora, cosa è successo? È successo che bisogna fare un ragionamento. Dopotutto, anche in Inghilterra vengono convocate le principessine agli internazionali di tennis, nei campi di tennis. È lì per vera la principessa. E quindi noi abbiamo le madamine, in Italia le madamine, insomma, accompagnano il vero mistero del potere. Il settimanale Chi, che è un fondamentale settimanale per capire i meccanismi, il costume e le logiche del potere, che cosa ha fatto? In un segnale subliminale la ritrae mentre fa la spesa da sola al supermercato, e siccome qui abbiamo le corna lunghe intese come radar, si capisce che il messaggio è ben chiaro: da sola al supermercato vuol dire che non ha il carrello dell'IKEA. Questo vogliono far capire tirando di gomito. Per... No, no, no, da sola. Da sola. Ah, beh, perché c'era una spesa, brava, no? C'era brava, lava, stira, cuce, fa la spesa da sola. Premia, premia i femministi. Lava, lavatura, stiratura, cuce, prende applausi. Brava, prende applausi. Schiati. Insomma, però. Qual è, vero? La sostanza, volevano far capire che lei non è come quegli altri che invece si fanno accompagnare dalla scorta, insomma la celebrazione. Sono dello stesso partito. Sì, però quella è rottamata. Lei non è rottamata. Allora, ragionamento conclusivo. Musica. Le donne. Allora, Repubblica di oggi, vi voglio segnalare, c'è una deliziosa intervista a Umberto Bossi, il grande capo leghista, che la sa tutta, sa decifrare, sa spiegare, prende Silvia e dice: è un povero pirla. Ma allora il ragionamento va a concludersi su un fatto. Il giornalista di Repubblica dice: ma insomma, con le donne ha esagerato? Però il vecchio Bossi la dice bene, e la dice in una forma meravigliosa. Ha esagerato con le donne? Beh, le donne sono un'esagerazione. Donna, tutto si fa per te. Che ne dici? È vero. Beh, insomma, sì, certo che... sono un'esagerazione dai minori. Sono una cosa Milano, meravigliosa. Certo. Oh, signor! Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce varia. Mi fido di te, Giovanotti. Questo è un bel pezzo di Giovanotti, eh? È molto allora renziano. No, guarda, senti, non è renziano. Pure senti, mi va di stare collegato, di vivere d'un fiato. Molto renziano. Mi fido di te. Vabbè, non è grave. Vai. Vabbè, allora di nuovo. paura di cadere, dai. Non è renziano. Allora, gigabanche, e mi fido di te perché ci fidiamo o no delle banche? Non lo so. Insomma. Io vi do così due pillolette sparse, due cose su quali riflettere. Il primo è che UBS pagherà 545 milioni di dollari negli Stati Uniti per aver manipolato il Forex, ma non ci sono problemi su questo. Mentre sul fronte delle paghette dei manager, segnalo il caso di JP Morgan, molto interessante, che è una disputa che va avanti da un bel po' di tempo, dove Jamie Dimon, che è il capo, il presidente e amministratore delegato, cumula due cariche, guadagna oltre 20 milioni di dollari l'anno, in realtà sono molti di più perché ha bonus, cash, ma vari, eccetera. Anche alla pensione o no? E bisogna vedere se c'è il retributivo o il contributivo. Non lo so, bene, adesso chiediamo anche a Treu, poi magari facciamo un'audizione con Boeri su questa paghetta. E insomma, gli azionisti si stanno un po' arrabbiando, cominciano a dubitare che vi sia una correlazione tra la paga e la performance economica di JP Morgan. Si stanno spaccando, i ribelli cominciano ad essere vicini al 40%. Questo a Wall Street è una cosa, importante. È una forse cosa importante. Tu sai che io poi euro, non sono per i salary cap, queste cose qua. Vabbè, però insomma, qualche rapporto. Questi stanno a pagare multe a non finire perché hanno fatto delle cose sul mercato non proprio bellissime. Quindi, sai, Gordon Gekko comincia ad apparire come uno del circolo del taglio e cucito, secondo me. Sì. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24, il canzoniere. Come sul labbro suo lo sdegno è bello, fra prezzo ed ira, ma è colpa di sangue tarda a tradirsi, ma più presto suole svelarsi amore se celarsi intende. Giorno pieno è la notte dell'amore. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS se per caso indovinate. Bolla! È facile. Caro Minoli, che la forza sia con te. Allora, dai. Star Wars, perché è... insomma, c'è un miracolo di Guerre Stellari che riguarda i soldi guadagni la Disney. Secondo me è bello da raccontare questo. George Lucas, che è il creatore, come sapete, di Guerre Stellari, ha realizzato guadagni per 2.2 miliardi di dollari soltanto dalle azioni che ha ricevuto da Disney per i diritti della saga cinematografica. Qui il fenomeno ovviamente non è solo Lucas, il fenomeno è la Disney, certo, che oggi è una delle aziende più profittevoli di Wall Street. Due numeretti, anzi la forza del brand. Dal 2012 a oggi sapete di quanto è cresciuto il titolo? 120%. Questa hai sì che è una cosa stellare. Disney, eh? Purtroppo no. No, peccato. Purtroppo no. Salamino! Se Atene piange, Sparta non ride. Fosse forse tutto risolto in una sorpresa? Allora, si comincia con una formula 6-1, ovvero vincere in 6 posti e perdere in uno solo. Così confida Matteo Renzi, che già ha messo in conto di aver sacrificato la Lady Like, cioè Alessandra Moretti, che pare in difficoltà in Veneto. Non riesce dunque la signora a strappare la presidenza della regione a Luca Zaia. La sorpresa però incombe. Giovanni Toti, per esempio, che è un fedelissimo di Silvio Berlusconi, guadagna terreno in Liguria, dove il PD, al di là della propria candidata ufficiale, sperimenta la diaspora, una prova di forza per misurare la consistenza di una sinistra a sinistra del PD, perché come sapete già sono pronti i primi nomi di una futura leadership, che vanno da Giuliano Pisapia a perfino Roberto Saviano. Ma dai. Parla. Non è possibile. Tutti in piedi. Arriva lui. E quindi 5-2. E allora si mobilitano gli scommettitori. E forse fosse è prossimo non un capitombolo, ma una scoppola con la vera incognita. L'incubo segreto di Matteo Renzi è in realtà la regione Marche, perché lì Gianmario Spacca, che è il governatore uscente del centro-sinistra, adesso è diventato il candidato governatore del centro-destra, e quindi 4-3. Se Atene Berlusconi piange, Renzi Sparta non ride. Se poi mettiamo anche che Vincenzo De Luca, candidato in Campania per il Partito Democratico, vince le elezioni, ma la legge ottusa gli impedisce di governare, è fatta. Insomma, signori, vabbè, la si tavola... Si accettano scommesse. Che fa... certo. Che 4-4, ma neanche... Insomma, la tavola è pronta, ma nessuno mangia! Che brutta cosa fanno con ma miseria nera e peggio culer che ti fa consumare. Dove non manca niente, di vena di pulizia, di sindo una munnezza, e che ne hai a toccare. Allora, no, 4-4, no? Sì, no, 4-3, 6-9, moltiplica pure le regioni dove si vota. Quella è la fantasia del poeta, no? Il poeta ha tutti i diritti. Grande Pietrangelo. Ha tutti i diritti il poeta. Noi li riconosciamo i diritti della poesia. Ma intanto, Marina, dove ci porti oggi dopo il giornale radio? Il 20 maggio 1999 le BR uccidono Massimo D'Antona a pochi passi da casa sua. D'Antona era un giurista al servizio dello Stato come Marco Biagi, che muore allo stesso modo 3 anni dopo. Oggi raccontiamo la storia delle indagini che legano questi due omicidi e che portano all'arresto delle cosiddette nuove BR. E ricordiamo con Pietro Ichino la personalità di Massimo D'Antona. Bene, dopo il GR, la storia di Massimo D'Antona, dell'omicidio D'Antona. E per chiudere, Mi fido di te, di Giovanotti, dedicata a Pietrangelo. No, a Pietrangelo. Grazie, grazie. A caval donato non si ascolta in audio. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac. Muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac.